sono pronto. Sbagli a metà, ma sbaglia bene se vuoi. Ricorda che siamo noi, racchiusi in uno soltanto. Rompi tutti gli incanti tuoi, scegli i cocci che incollerai. Prendi il piatto.